conosco l'immenso tuo potere e troppo hai falle. A danno dell'Egitto io provocai i tuoi linetti ebrei, chiami al deserto, onde si compia il grande sacrificio che brami. Io lo prometto, tu non mi oppongo, e il tuo voler rispetto. Si schiarino i miei ravi, padre, se io sappio porgli, allor vedrai. Ma perché tanto indugia nel popolo di Giuda il condottiero? Al suo desio severo più lo è Faraon. Venga ed arresti il flagello divino. Qual Mosè che chiedesti e a te vicino? A che mi chiami ad ascoltar non hai sprezzi ed ingiurie al Dio che di sua possa tante prove ti die. Purché sereno splenda l'Egizio cielo, al popolo tuo, Mosè, lo giuro, ove ti piaccia andrai. Oh, quante volte o quante promettesti così, ma poi... Io che già malvagio consiglier, false ragioni mi han sedotto finor, ma questa volta alle tenebre orrende i teni alto terror nell'alma impresse e fido attenderò le mie promesse. Ebbene, quel Dio che volentieri perdona mentre tardi punisce, accogli ancora la data fe. Tu all'apparire di nuova luce e il ciglio e i sensi tuoi rischiarà l'alto suo nome. Glorifica il tuo nome, fa compagni clemente. Alla regione di Stato, c'è dal voler del cielo. per noi spuntò, per noi spuntò. Ma crude smanie, come ai misero, la sua malia dell'erbo luci. Premi e si prostri al mio saper, Mosè, Thank you. Acerba morte il punirà. Qual gioia ti riflette il mio re, cangia consiglio. Pace, oh regina, o risolvo, e va. basti. Ma tremi il mio nemico, tremi Mosè, se il mio voler contrasta. vada, e si coroni l'opra. Thank you. cuore di Dio la sigue. Paresi son due fore, o errore! Di morte, venne il Signore, se non si spetta, io non... Dio paventa, arresta i colmi suoi, e fallo tu che vuoi, affretta ed emendata. Torno d'Armenia, Ithaco ambasciator. e ascolto. Accogli la tua destra e il tuo cor, le offerte nozze, la real principessa. Io muovo. Appena ne vidi ebrei, scombrato sia l'Egitto, s'accendano le tene. Sperate, amabili catene, succederanno una volta a tante pene. E mai farò la fiamma mia che al padre svelar volea per ottener che il cia meco restasse. Eccomi a lui paleserò. Perché dolente, prence, ti vengo il volto, qual grave affanno hai nel tuo seno accolto? Parla, spiega, non può. Quel che nel te io sento, quel che nel te io sento. Non me ma che ne fanno? La posso, padre, ma lo sai. Ma bella! La mia nemica spenda, mi col perverso amore. E a te la tua bella, nel mio prendo ancora. Ma bella, ma bella! Thank you. sei feroci, inonderan le mie campagne il regno. Se lascerò, come indicò l'editto, i perigliosi ebrei partir da Egitto. E la misera gente, qual mai si può temer? Otto! Tramosa di formarsi un asilo, dalla violenza ottenerlo saprà. Quindi infestati, da vicini regnanti, i domini saranno. O debole pretesto, o nuovo inganno, e chi sono costoro in faccia al nostro Dio? Volle che il vento e agita e disperde in un momento. Brava ragione stato, rivoltarmi a stringe, qui vedi ben l'ordin già dato. O cieco, o affascinato re, nuovi flagelli richiami sul tuo capo. O la favelli qual deve Mosè? Non è Mosè, raduna sul suo abrio quel Dio che tante prove ti diede il suo potere, quel Dio che stanco di mio soffrire di atroce colpo da sbaglio sul tuo paterno cuore, che costare ti saprò pianto e dolore. Il re al prente con tutti i primogeniti saranno fulminati dal cielo. Guardie, fra ceppi costui si è tratto, or vedremo se il fulmine abbatterà sul trono il figlio mio, o te da morte salverai il tuo Dio. Tutti i ceppi magroni l'amavano, nimmi oggi di morte fresca. Tutti i ceppi magroni l'amavano, nimmi nacci di morte fresca. Ma non sai che non manco è un pano, a colpirmi ti lo segno del cielo. Tutti i ceppi magrori l'ammano, mimmi d'oggi di morte ne funesta. Tutti i ceppi magrori l'ammano, minacci di morte questa, ma non sai che lontano è lontano colpirti lo segno del ciel, ma non sai che lontano è lontano colpirti lo segno del ciel. Anni tra fieri tormenti, troppo tardi l'eror piangerai. Tra gli anni tra fieri tormenti, troppo tardi l'eror piangerai. Di pietà di mai man cercherai, di pietà di mai man chiederai. E pietà dei man cercherai, che tanto è bello, che tanto è bello, che pietade, ma in van cederai, che non merita che tanto in veder. E pietade, ma in van cederai, che non merita che tanto in veder. E merita che tanto in veder. E merita che tanto in veder. Primogeniti del regno, osò poc'anzi minacciare i giorni l'orgoglioso Mosè. Qual baldanza! Sul trono d'Egitto e al fianco mio lo venga però quel vil che di sua morte cenno abbia del trence stesso e un suo folle presagio annunzia oppresso. E si svelga una volta dal sol pianta benefica che onora la nostra pace in festa. Come pur raduna i grandi omambri al principe sul soglio fedetare ognun giuri e rispetto. Sì, per comando ad eseguir mi affretto. E la tua fedeltà è la cecità sei pertinace. Alza orri tu la temeraria fronte, così di desforio, cui non acquari in questa regio sasti la morte minacciar. I dei, custodi della vita del re, balzaro al trono per far pigliare le tue fore. Or vieni prostrato a questo piè, comincio vile a tenermi a tremare. Come tuo servo obbedisco al comando, or re t'inchino. Come d'un dio ministro alza la voce e torna a minacciar. O Israele, se tu vuoi salvo e il popol tuo, se lieghi a cadere ti prepara, o ti gradi sul trono e sei sfollata. Ehi più imperversa, lo cielo sia dunque ver, quando la fama corpo sparse di te, ma così ride, smenti. Smentir falsi portenti, domar l'audace ebrea, perché farti tacer, guarda Maltea, son di soffrir già stanco. Thank you. Thank you. comenzavo, o figli, o dopo tante pene e tormenti, alla voce in grembo Dio tragge il popol suo. Deserti d'Arabia e ne prilomette nel grande sacrificio vuol che si compia ognun riconoscente con l'ostia il cuore consacri al Dio. Oh, quel favor. Che vero? Ore! Al colle scende immensa falange. Oh, siamo sorpresi, cinzero e fuor! Abbandoni quel Dio che a vostro prio conti partenti aprio finor. 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。